Ave Maria a tutti ragazzi e ragazze, carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio, la radio che vuole portare l'Immacolata che oggi, 16 luglio, veneriamo sotto il particolare titolo di Beata Vergine Maria del Monte Carmelo nei nostri cuori. È una grande festa oggi, festa che ci invita a riscoprire un po' di zelo per il Signore. Sapete che la devozione alla Madonna del Carmelo, perdonatemi questa piccola introduzione, viene dal profeta Elia, a cui San Simone Stock, fondatore dei primi dell'ordine carmelitano, e quindi colui che radunò appunto sul Monte Carmelo i primi monaci sotto la loro austera regola di vita, ispirandosi appunto al profeta Elia. Il profeta Elia, che fu il grande profeta di Israele, solo contro tutti, solo contro 400 profeti di Baal, rimasto l'ultimo baluardo della fede trasmessa da Yahweh, ad Israele durante il tempo del pellegrinaggio nel deserto, e rinnegata purtroppo dai re, che si sono succeduti al grande re Davide. A cominciare da Salomone, che fu un grande re per tutta la vita, tranne che al termine della vita, dove andò a corrompersi appresso alle donne, vedete il peccato impuro contro il sesto comandamento, lasciando poi un successore pessimo, Roboamo, il cui successore ulteriore, che era appunto Acab, contemporaneo di Elia, fu proprio la somma delle impietà, sposò una donnaccia, Jezabele, idolatra, a cui si associò nell'idolatria, che divenne la nemica giurata numero uno di Elia, attentando anche alla sua vita. Elia, come sappiamo, sul Monte Carmelo sfidò e vinse la battaglia contro i 400 profeti di Baal, che dopo averli umiliati attraverso l'offerta del sacrificio che Dio bruciò col fuoco dal cielo, mentre quello dei profeti di Baal chiaramente rimase così come stava, uccisero tutti quanti di spada, poi ebbe a subire la persecuzione violenta di Jezabele, che lo fece cercare per ucciderlo, e poi appunto sul Monte Carmelo, dove di nuovo sul Monte Horeb si ritirò, scusate, non sul Monte Carmelo, ma sul Monte Horeb, ebbe la teofania, la presenza di Dio, la brezza leggera e la rassicurazione per terminare la sua missione, che poi appunto terminò gloriosamente, salendo su un misteriosissimo carro di fuoco. Noi non sappiamo che fine ha fatto Elia, perché Elia, insieme all'altro misterioso personaggio che è Enoch nel libro della Genesi, sappiamo che sono stati portati in un misterioso luogo, ma non sono passati per la morte, quindi non sono né morti e né risuscitati. Questo è un grande mistero, insomma, nessuno sa, non c'è nessun documento magisteriale su questo, che fine abbiano fatto, però, stante al testo sacro, questi due uomini sono stati rapiti e non sono più tornati, lasciando poi come successore Eliseo, diciamo che dal grande Elia poi nel corso del tempo ebbe inizio il ciclo profetico. Vi dico queste cose perché la Madonna del Carmelo ha attinenza con questo, quindi è l'immagine della Madonna, come dire, per certi aspetti combattente, cioè che vuole dai suoi figli che ardano di santo zelo, non uno zelo amaro, non uno zelo disordinato, ma uno zelo vero, ecco, e che abbiano a cuore le sorti del popolo di Dio che va verso la rovina o verso, ahimè, proprio le vere e proprie sciagure. Io oggi comincio questa trasmissione, riprendiamo chiaramente il sesto comandamento, oggi apriremo il secondo genere di atti impuri, cioè comportamenti contrari alla concezione della vita come frutto naturale dell'amore umano tra un uomo e una donna, tra un uomo e una donna e tra un uomo e una donna. Ecco, e non è un caso che dica queste cose con questa enfasi, poi ci accenneremo forse. Oggi, forse io nello zelo ho esagerato un po', perché sono stato testimone tra ieri e oggi proprio di argomenti riguardanti qualcosa che abbiamo già accennato e che riprenderemo, che mi hanno proprio fatto divampare, proprio spero che sia santa collera, ecco, ma se guardate, se sto proprio nero, se è una giornata di quelle proprio in cui sto proprio nero, quella è quella di oggi. Guardate, ieri mi sono trovato a Roma con un caro amico sacerdote. Chiaramente abbiamo fatto due passi per il centro di Roma, siamo entrati in due basiliche, anzi in tre, San Giovanni Laterano, Scala Santa e Santa Maria Maggiore ad assistere al carnaio, come dire, impressionante. Cioè, davanti a Santa Maria Maggiore c'era una scenetta di questo inserviente che stava davanti alla porta, circondato di vere e di vedette bianche, a dire a quella: mettitelo di sopra, tu non mettitelo pure di sotto, tu qua, tu là. Poi queste appena entravano dentro si denudavano nuovamente. E non vi dico cosa ho potuto vedere dentro queste benedette chiese, lasciamo perdere fuori. O alla Scala Santa, ieri siamo andati a fare la Scala Santa, non so chi di voi sa che cos'è la Scala Santa è come dire, è una reliquia trasportata dagli angeli, noi ancora ci crediamo a queste cose, no, dagli angeli sono, non mi ricordo se dagli angeli della casa di Loreto, comunque è stata trasportata dal pretorio a Roma, non mi ricordo se miracolosamente o tramite le barche Renaio, perché insomma è una scala lunga. No, saranno 10-15 metri, se non di più, che era la scala del Palazzo del Pretorio, del Pretorio di Gerusalemme, la scala che Gesù ha percorso insanguinato quando è stato presentato nell'Ecceomo e poi condannato a morte. È una scala che si fa in ginocchio, è un grande esercizio penitenziale a cui è annessa l'indulgenza plenaria. Dovete vedere le donne a fare la Scala Santa mezze nude, quindi a fare un esercizio penitenziale in canottiera e gonnellina che chi ti sta dietro. Lì sono tutti in fila, cioè, ma voi capite? Cioè, io dico, come si fa a vedere queste cose e a non accendersi di sdegno? Speriamo santo, se non mi devo riconfessare, io mi sono confessato ieri. Oggi mi capita di dover andare per motivi inerenti a obblighi parentali, diciamo così, ad una seduta di discussione di tesi di laurea, non vi dico quello che ho potuto vedere, cioè con un imbarazzo tra l'altro impressionante, perché io sono un prete e sono andato che ovviamente lì vestito da prete, non camuffato, vestito da. Ma cioè, io non sono andato in mezzo a una serie di persone, quello era una specie di covo di mezzi demoni, c'erano tutti i demoni della lussuria lì in mezzo. Ma con una volgarità, con una procacità, con una indecenza, con una cafonaggine, con un pessimo gusto, con un'ostentazione proprio becera, d'accordo? Di tante cose, che io non so come ho fatto a rimanere lì zitto e non sapendo più dove andare a appoggiare gli sguardi, d'accordo? Non sapendo più dove, perché comunque ti giravi male, e a dover stare a vedere queste cose, altro che Elia. Allora vi dico queste cose, ragazzi, perché io spero che mi arrivano dei ritorni positivi, perché sapete, queste catechesi poi vanno a finire un po' in giro, un po' su YouTube, un po' sul sito, e mi arrivano dei ritorni, cioè nel senso di persone che ci meditano, ma non sono per le cose che dico io, guardate, ve l'ho detto altre volte, a me di me non me ne importa assolutamente nulla, dite tutto quanto il male possibile e immaginabile sul sottoscritto, non fatelo soltanto perché sono un prete, perché pare che il nostro Signore non voglia che si faccia dei preti, ma di me in quanto me potete dire tutto quanto il male possibile. Però su queste cose, come ho sempre detto, io vi parlo non a nome mio personale, vi parlo a nome di Gesù e della Chiesa. Quindi le cose che vi dico sono vere e sono da mettere in pratica. E chi non lo fa, fa cosa grave a non metterlo in pratica. Quindi non sono soltanto cose da vivere queste sono cose da vivere e da testimoniare con coraggio. Nell'omelia di domenica scorsa, vi ricordate quando c'era il buon samaritano, no? Chi è il buon samaritano? Il buon samaritano è quello che, a differenza degli altri due, che vedono un poraccio che sta morendo e semplicemente passano oltre, se ne infischiano, non se ne infischia, si ferma. E in una delle omelie dico: guardate che questo è uno spunto di riflessione per i nostri peccati di omissione. Perché non basta dire davanti a Dio io non ho fatto il male. Perché il male non dilaga soltanto per colpa di chi lo fa, ma dilaga anche per colpa di chi, potendo combatterlo, contrastarlo, contestarlo, non lo fa. Ricordate il proverbio popolare che dice: chi tace acconsente. Chi tace acconsente. Chi fa finta di niente, pro bono pacis, per quieto vivere, pecca. Capite? Pecca doppiamente quando ha un ruolo tale che lui sarebbe tenuto ad impedire il compimento dei peccati. Cioè, se entra una nuda in chiesa dove sono parroco io, quella certamente fa peccato mortale, ma se io non la rimprovero e lascio correre, il Padre Eterno se la prende con me, ma se la prende di brutto con me. Perché sono io che dovrei e potrei impedire quella cosa e devo farlo davanti a Dio e non faccio niente. Quindi, se nessuno dice A, si crea poi l'andazzo, la cultura che questa è normale, cioè il livello del pudore oggi è sceso sotto la suola delle scarpe, ragazzi, ragazzi e ragazze, ma anche con la nostra collaborazione. C'è stato qualcuno stamattina che quando mi sono lamentato mi ha risposto, dice, ma tu sei troppo esagerato, noi qui dobbiamo vivere nel mondo. Dico, dobbiamo vivere noi nel mondo? Questo sarebbe il mondo? A Roma dicono che c'è il mondo e c'è la monnezza. Ecco, questo non è il mondo, questa è la monnezza. Noi non possiamo accettare e essere d'accordo di vivere nella monnezza e di metterci il carico da 90 sopra. Né possiamo pensare di poter essere giustificati dal fatto che viviamo in un contesto dove ormai questi sono i costumi. Non ci interessa niente a noi dei costumi, ci contagi la Madonna del Carmelo con un po' di santo zelo anche per l'intercessione di Sant'Elia, eh? E poi tanto la Madonna è stata sempre molto zelante perché Fatima ha detto le stesse cose su questo tema. Guardate, io però constato che di anno in anno andiamo sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio. Tanto è vero che ho scritto un post oggi su Facebook, citando un salmo che mi viene da dire: ma fino a quando, Signore? Fino a quando? Fino a quando tacerai? Fino a quando sopporterai tutto questo? Fino a quando? Fino a quando? Ecco, entriamo oggi in un altro tema che sicuramente mi vedrà. Sono delle sofferenze immense quando io parlo di queste cose. Perché io penso che chiunque non possa, cioè chiunque abbia un minimo di cuore, non possa assistere a questo dilagare. Come dire, furibondo, incontrastato e apparentemente incontrastabile dell'iniquità. Ho detto prima, frutto naturale dell'amore umano tra un uomo e una donna. Adesso vorrebbero discutere in Parlamento la legge anti-omofobia. Capite? Così, come hanno detto fior di giuristi, se qualcuno si dovesse azzardare a dire che il matrimonio naturale si fonda sull'amore tra un uomo e una donna, tra due individui di sesso diverso, si fa 3 anni di galera perché ha offeso gli omosessuali. Io voglio vedere adesso, se dinanzi a una cosa di questo genere, ma dove stanno i cristiani? Sono 50 anni, ragazzi, che qui il male dilaga per colpa nostra. L'ho già detto quando abbiamo parlato della famiglia, del quarto comandamento. La legge Fortuna è una legge infelice, sciagurata, quella che ha introdotto il divorzio. Ma gli italiani sono stati chiamati a esprimersi col referendum e hanno detto che lo volevano il divorzio. Se andate a dire adesso in giro, è tale il lavoro di lavaggio del cervello che è stato fatto dolosamente da certi mass media, pompati e organizzati da chi c'ha interesse a corrompere l'umana società, che se vanno a dire in giro sei favorevole tu agli omosessuali, alle coppie. Sì, c'è, cioè, e se t'azzardi a dire mezza cosa, tu sei un boia, tu sei un cane, tu non sei cristiano, non hai carità, giudichi questi poveri nostri fratelli, non li lasci in pace, non li lasci liberi. Quindi non solo che c'è questa follia, ma ahimè, nel cuore di molte persone c'è anche la convinzione non soltanto di stare dalla parte del giusto, ma stare dalla parte di Dio. Non per niente abbiamo visto qualche tempo fa un funerale di un mio confratello che tutti applaudivano. Qualcuno aveva già quasi canonizzato, semplicemente perché lui era buono, lui accoglieva tutti. Lui accoglieva i transgender, i transessuali, questi, quell'altro, senza nessun problema. Come ti permetti di dire mezza cosa a questi qui? Ma questi sono figli di Dio. E tu chi sei per giudicare una persona soltanto perché è diverso da te? Questo si pensa oggi in giro. Vi ripeto, la cosa che a me fa male, vedo anche alcuni commenti su Facebook che mi fanno montare su tutte le furie. Perché dico, ma signore, ma possibile che il demonio gli ha lavato il cervello fino a questo punto? Possibile che hanno, cioè, abbiamo perso il senno, cioè la capacità di fare dei ragionamenti minimi ed essenziali. Mi dispiace vedere queste cose. Cioè, adesso ci vorrebbe veramente, come dire, una truppa di cattolici, come si dice, col K, che siano santamente agguerriti, pieni di carità, pieni di dolcezza e pieni di santo amore, ma su alcuni cosiddetti valori non negoziabili, non si può transigere. Chi è che ha promosso questa legge? Chi è che ha promosso? Alcune persone che fanno parte del Partito dei Moderati. Di centrodestra, i quali si ispirerebbero a quello che dicono, e ci hanno anche mandato le lettere durante la campagna elettorale, ai valori cristiani. Dove stanno i valori cristiani? Nessuno, ovviamente, prima che mi mandano in galera per una trasmissione radio, io non sto dicendo che bisogna mettere a rogo qualcuno, che bisogna perseguitare qualcuno, per carità di Dio. Per carità di Dio. Dio stesso, come dire, tollera e lascia in questo mondo i peccatori liberi di fare quello che vogliono, senza dargli la benedizione però. Perché la prima carità che Dio c'ha nei nostri confronti, e che io sto facendo anche presentando i 10 comandamenti, è dire: tu c'hai la tua libertà che io ti ho dato e che ti rispetto, però sappi che questo è il bene, questo è il male. Se tu farai il male, io, che rispetto la tua libertà, non ti impedisco materialmente di farlo, ma tu ti farai del male e me ne dovrai rendere conto. Padre Pio diceva che questa è la prima forma di carità. È ovvio che poi tu sei liberissimo e neanche si può fare la persecuzione. Nessuno ha detto che per il fatto che uno è omosessuale deve metterlo in galera o deve dargli condanne penali. Quando mai? O fare persecuzioni? Quando mai? Ma un conto è dire: c'hai il libero arbitrio, vuoi fare questa cosa? Se vuoi, se credi opportuno, falla. Ma questa cosa ricordati che non è una cosa buona. E è comunque diversa da quella che viene normalmente fatta nel consorzio umano, come dimostra il fatto che dalle cose che vengono normalmente fatte si genera una vita, e come anche fior di costituzioni laiche, tra cui la Costituzione italiana, riconoscono. Quindi non è che ci vuole da essere chi lo sa quali grandi uomini e donne di fede per comprendere alcune ovvie ed elementari verità, anche se oggi sembra che questo concetto non sia così chiaro. Allora, veniamo al merito, all'introduzione del tema di oggi. Quindi, la vita è frutto naturale dell'amore umano tra un uomo e una donna. Il sacramento del matrimonio serve a due cose. Uno, l'abbiamo visto nelle puntate precedenti, a istituire un mutuo consorzio umano di donazione totale e reciproca dell'una e dell'altra, dentro una scelta ben ponderata di darsi A per la felicità di, che costituisce la base, il fulcro del consenso matrimoniale. Questo, per volontà di Dio, almeno nell'attuale stato di natura decaduta, e non c'è alcun dubbio, è orientato, ordinato ad una missione, che è quella di collaborare con Dio alla creazione di nuove vite. Ora, il fatto che Dio abbia chiamato gli uomini a cooperare con Lui alla trasmissione della vita è un onore per gli uomini, perché Dio poteva tranquillamente creare gli uomini da sé. Lo disse anche San Giovanni Battista ai farisei: che dite che siamo figli di Abramo? Dio, se vuole, può far nascere i figli di Abramo dalle pietre. E state attenti che se volesse lo potrebbe fare anche adesso. Non lo ha mai fatto e forse non lo farà mai, ma se volesse potrebbe. Quindi non è che Dio non fa queste cose perché non può, ma perché ha fatto una scelta di, come dire, di gratificazione dell'uomo. Cioè, io che sono la vita e che do la vita, ti do l'onore di cooperare con questo, perché una parte, se voi sapete, dell'umanità, del nascituro, dipende dai genitori. I I cromosomi, adesso lo sappiamo anche a livello scientifico, gli danno proprio alla mamma. Ciò che attiene alla vita strettamente materiale e biologica, e qualche autore sostiene non senza fondamento, anche alcuni aspetti temperamentali, dipendono dai genitori. Per cui tu puoi avere questo grandissimo onore che, pur non essendo Dio, non essendo capace di creare nulla, e sfido chiunque a dimostrare il contrario, però sei coinvolto in questa grande opera che è quella della creazione, così come un consacrato. Io sono coinvolto nella grandissima opera che è la santificazione. Ma pensate che Dio c'ha bisogno di me per santificare le persone? Ma perché non potrebbe scendere adesso Gesù e fare lui tante belle catechesi, molto meglio di come le fa il sottoscritto, e tra l'altro con il grande vantaggio di poter dire che tutto quello che dice dalla prima all'ultima virgola lui lo vive e lo vive con la massima perfezione possibile. Non avrebbe potuto Gesù rimanere eterno e continuare a fare sempre lui il Papa perpetuo della Santa Chiesa? Poteva farlo, no? Ci sarebbero stati forse anche molti problemi di meno, ma ha voluto coinvolgere gli uomini. Ora, che succede? Che se io, come tutti quanti capite, stiamo sempre a lamentarsi dei preti, se un prete corrisponde male a questa sua altissima vocazione, che succede? Che alcune persone non si santificheranno. Non si santificheranno. Perché una volta che Dio fa una scelta di conseguire degli effetti con l'ausilio volontario e libero e ragionevole, vuol dire liberamente assunto, dopo essersi preparato ad assumersi le conseguenze di ciò che si fa. Quindi se Dio fa questa scelta, alcuni effetti non li conseguirò pur potendo, se non attraverso l'ausilio di alcune cause volontarie e libere seconde, quegli effetti non succederanno. Allora, cominciamo subito a capire una cosa fondamentale. Una coppia di sposi, un giorno o l'altro, andrà davanti al Padre Eterno. Noi questo ce lo dobbiamo ricordare. Ce lo dobbiamo ricordare, ragazzi. Non ce lo dobbiamo ricordare per avere paura o per dire sotto il terrore, ma ce lo dobbiamo ricordare. A me quando mi cominciano a dire che tu sei un retrogrado, che tu sei un bacchettone, che tu sei esagerato, che tu sei matto, che ancora vai appresso, obblighi le persone, dice la gente che deve andare col burka, mai dette cose di questo genere, io me le tengo queste cose. Ma queste cose ricompariranno tutte quante fuori quando ci troveremo davanti al Padre Eterno. Poi vedremo lì chi è che c'aveva ragione, vedremo lì chi è che era esagerato, vedremo lì chi era retrogrado o chi proclamava a voce alta. E non mi importa se rimango da solo a farlo, non mi interessa affatto nulla. Non è vero che sono da solo, cioè, grazie a Dio siamo ancora in tanti, sparsi in giro, ma siamo in tanti. Quindi non è vero questo qui. Ma se Dio non vuole che si rimanga da solo, io continuo lo stesso. Perché quella è la verità. Perché se tutto il mondo comincia a camminare a testa sotto, io non comincio a camminare a testa sotto, io dico a tutti quanti, siete una banda di matti, perché se cammina coi piedi, non con la testa, o con le mani a testa sotto. Allora, una coppia di sposi dovrà presentarsi davanti a Domine Dio, sì o no? E che cosa gli va a raccontare a Domine Dio? Quanti figli hai fatto? Uno. E gli altri dove stanno? Così diceva Padre Pio ai benedetti. Gli altri dove stanno? Cioè, ne hai fatto uno perché tu, sempre aperto alla vita, da sempre, rimando agli incontri precedenti, dopo aver vissuto un fidanzamento santo, per cui tu puoi essere moralmente certo, fino a prova contraria, che ti sposi con la benedizione di Dio, se ti sei preparato bene, se hai fatto discernimento, se hai fatto fidanzamento santo, eccetera, eccetera. Aperto alla vita, sempre, ti sei unito a tua moglie tranquillamente, senza stare a preoccuparti a fare conti, cose a destra e a sinistra, o usare tutte le cose strane di cui da oggi cominceremo a parlare, mi è venuto un figlio solo. Guarda, signore mio, gli altri potevano stare pure tutto il giorno a fare, non sono venuti, che tu hai fatto un figlio solo. Questo è il figlio che Dio ti ha dato e di quello Dio ti chiede conto, non solo di averlo fatto, perché sarebbe, ma anche di come l'hai educato. Però questo sarà un argomento che tratteremo magari in un altro momento. Ma se tu sempre un figlio c'hai, perché ti sei ammazzato di pillole, di preservativi, di spirali, di aborti, di cui non parleremo, abbiamo già parlato nel quinto comandamento, di coiti interrotti, che molta gente, come vedremo, si pensa, siamo stati attenti, quindi abbiamo usato i metodi naturali. Quello non è un metodo naturale, lo vedremo. Non è un metodo naturale, quello è un peccato mortale gravissimo. Non è un metodo naturale. Allora, sai che succede quando andrà dall'altra parte? Che il Padre Eterno ti farà vedere, tu hai fatto un figlio. Ma guarda, caro fratello mio e cara sorella mia, che io a voi avrei voluto darne non un figlio, avrei voluto darne 5, 6, 7. E magari ti farò anche vedere che il quarto o il quinto, che non è mai nato. Attenzione ragazzi, non è mai nato e mai esisterà. Cioè c'è una persona umana, tra l'altro chiamata alla vita eterna, che non verrà mai al mondo, capito? Mai più, perché quello era figlio tuo. Quell'anima Dio la creava come frutto dei cromosomi tuoi e di tuo marito, per essere la forma di quel corpo, non di altre. E quell'anima non ci sarà mai più. Ma io se fossi sposato, guardate che queste cose... Non si tratta di fare il terrorismo o di mettere paura, ma bisogna prenderle sul serio. Oh. La stessa cosa vale per i preti, eh? Perché se io nego un sacramento a qualcuno, una persona mi chiede di confessarsi, che c'è urgenza, e io siccome sto a fare gli affari miei, dico no, in questo momento non c'ho tempo, quella muore e va all'inferno, vediamo dopo quando io mi presento davanti a Domine Dio. Di quell'anima viene chiesto conto a me, perché per la confessione, per l'olio santo, un prete deve essere disponibile sempre. Confessione chiaramente seria, eh? Ecco, non la confessione della, non lo so, dell'anima santa e devota che magari in un momento inopportuno, subito finita la messa, che uno dovrebbe fare almeno 5 minuti di ringraziamento, si viene a confessare perché ci ha avuto tempo prima. Quindi non, perché bisogna anche un attimo, però una persona che tu non hai mai visto e conosciuto, che ti viene a chiedersi di confessare, dice padre, ho bisogno di confessarmi, tu la devi confessare, se no ti prendi questa responsabilità, e se anche non dovesse morire non fa niente, perché il padre lo dice, ti avevo mandato quell'anima, tu l'hai mandata via, magari quella non si è confessata per altri 20 anni, e se fosse morta sarebbe andata all'inferno, tu sei responsabile di quell'anima. Se non, allora dice, ma io sono stanco. Chi te l'ha ordinato di fare il prete? Direbbe a me, te l'ha ordinato qualcuno di fare il prete? Non sapevi la responsabilità che ti prendi facendo il prete? Sto parlando contro di me, eh? Non sto parlando contro. Agisci di conseguenza. È meglio pensarci prima a queste cose qui. Perché una volta che io avessi fatto una scemenza del genere, io posso fare altre 500.000 confessioni in vita mia. Ma quell'anima che fine ha fatto? Allora, facciamo un attimo una piccola pausa, che sono le 17, per l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, dove stanno i bambini non nati? Dove sono? Come hai concepito la sessualità anche in matrimonio? Che cos'è la sessualità secondo te? Che cos'è? Strumento di godimento e basta? Mi devo andare a inventare di tutto e di più per trarre da questo mondo il massimo piacere possibile? E la vita è semplicemente una minaccia? Oh no, non lo basta adesso, eh? Non facciamo altri figli che dopo ricominciamo tutto quanto con i pannolini, con le cose, uno, due, basta, ne avanzano, stop! Allora facciamo stop totale se facciamo stop. Facciamo stop totale. Continenza, facciamo voto di castità. Vuoi fare stop a quello, fai stop anche a quell'altro. Almeno ti puoi presentare davanti al Signore dicendo, fatto due figli soli, però ti ho offerto il sacrificio della continenza. A sconto dei miei peccati e per la conversione dei peccatori. Qualcosa di buono almeno ci sta. No! Io ho fatto tutto quello che mi è parso e piaciuto. Nel lecito e nell'illecito, poi li vedremo anche alcuni illeciti dentro il matrimonio, alcuni peccati balordi che si possono trovare anche all'interno del matrimonio, dove non è che per il fatto che uno marito e moglie è tutto lecito, è tutto concesso, eh? Non è affatto vero questo, questo è un altro punto che poi affronteremo, non è vero questo qui. Ecco. voglio fare tutto quello che mi pare, non voglio i figli, e Papa dovrebbe dirmi bravo, facciamo la comunione, facciamo tutto. Ecco. C'è gente che va a dire in giro, io spero sempre che mentano, perché non voglio neanche, come dire, considerare lontanamente l'ipotesi che un mio confratello, un membro dell'ordine sacro, possa osare dire scemenze del genere. Ma qualcuno va a dire in giro, ma io ho detto al confessore che ho già fatto 3 figli e prendo la pillola. Lui mi ha detto, ho già fatto 3 figli. Ah, ma basta e avanza, sono più che sufficiente davanti a Dio. Quindi tranquillo, se ti senti in coscienza di fare questa cosa, falla, che tanto 3 figli basta e avanzano, non ti confessare nemmeno, fai tranquillamente la comunione. Questo racconta qualcuno. Io chiaramente dico che racconta qualcuno, non voglio assolutamente prendere per buona una cosa di questo genere. Poi gli ascoltatori che hanno a essere conferma di queste cose, pace, insomma. Allora, cos'è la vita umana, ragazzi? È un dono o è una minaccia? È un dono da accogliere o è una minaccia da cui difendersi? Arriva un altro figlio. Ma certo che se ci sta questa mentalità in giro. Con il corpo che è diventato l'idolo sommo, il feticcio assoluto. Guai se uno non è una statua perfetto, se non c'ha il seno ultramodellato, se non c'ha la vitina ultrasnella, i glutei ultrabombati, tutto quanto così. E certo, se comincia a fare una, la seconda, la terza, la quarta gravidanza, tutte queste cose te vanno per aria. Ma noi abbiamo il culto del corpo oggi, no? Perdendo anche il senso del ridicolo. Che a 70-80 anni andiamo a farci lifting e controlifting per tirare sul seno, per togliere la ruga, per rimettersi i capelli. E dopo? Passano altri 10 anni e che cosa fai? Cibo per i vermi diventi. E questo grande corpo super idolatrato, non basta neanche sorella morte a farci venire un pochino di senno. Andiamo a aprire le tombe. Se io penso a mio padre e mia madre, mio padre e mia madre sono diventati due scheletri. Adesso è triste considerarlo, ma è così. Il curato d'arte chiamava il proprio corpo il cadavere ambulante. Noi abbiamo un cadavere ambulante. Certamente dobbiamo trattarlo con decoro e con rispetto fino a quando siamo in questo mondo. Nessuno di noi deve andare in giro come un mostro di Loch Ness a spaventare le persone. Bisogna essere puliti, ordinati, composti, dignitosi. Decorosi, anche gradevoli alla vista, ma basta poi, no? Basta. Basta. E se c'è qualche piccolo problema derivante dal fatto che sto facendo la volontà di Dio, è pazienza. Se un prete diventa un pochino gobbetto perché sta tutto il giorno seduto a confessare, oppure gli vengono 2 o 3 chili in più, non perché s'abboffa sempre, ma perché stando tutto il giorno seduto e non avendo tempo di fare chissà che cosa, o sta a digiuno perpetuo oppure inevitabilmente ingrassa, non succede niente. Non succede niente, non succede. Non muore nessuno. Allora, noi abbiamo i santi, Santa Giovanna Beretta Molla, in giro da qualche parte, forse sul mio canale Gloria TV, sì, sicuramente, c'è un documentario stupendo su Santa Giovanna Beretta Molla. Sappiamo tutti quanti, detta dagli amici la Gianna, morta per dare alla luce il quarto figlio che io ho conosciuto, Emanuela, che va raccontando in giro la testimonianza della sua santa mamma. Il fratello, prete, durante quel documentario, anziano, un patriarca, un santo prete, sicuramente, da quello che dice. Racconta che quando la Gianna faceva le novene per concepire un figlio, Cribbio, le novene, si metteva a pregare in ginocchio perché dice la vita è un dono di Dio, quindi che sto a fare, che mi sono sposato a fare? Speriamo che il Signore mi conceda di avere tanti figli, tanti, così qualcuno glielo doniamo, qualcuno diventerà prete, qualcuno diventerà suora, o no? E faceva le nove. E quando era incinta non si faceva prendere le paturnie, i pianti, un altro figlio, e adesso come facciamo? Arrivare alla fine del mese, e mo mi riviene la pancina, e dopo mi si cade il seno, mi viene il latte. Ma stiamo scherzando. Che non andava dal parroco che faceva suonare le campane a festa, chiamava le amiche a fare la festa la sera. Questo hanno sempre fatto, non dico i santi, i cristiani normali. I nostri nonni, le nostre nonne, pur senza essere San Francesco e Santa Chiara, bravi cristiani però sì, hanno fatto 7, 8, 9, 10, 12 figli. Io in un'omelia di 2 domeniche fa è uscito un articolo su Basta Bugie, che vi consiglio, ottimo periodico online, di una coppia non neocatecumenale, perché sembra che soltanto i neocatecumenali fanno i figli qui oggi. Se pare che solo, cioè, pare che lo facciano solo loro. Accipicchia. Quindi una coppia di cristiani normali, senza colori ecclesiali, aspettava il 16° figlio. E parlava di queste cose come di cose assolutamente normali. Non sono cose strane. Oggi dilaga la mentalità che il beato Giovanni Paolo II chiamava di morte, la mentalità della morte, che ha denunciato nell'enciclica Evangelium Vitae, che non è soltanto, come dire, incarnata dalla legge sull'aborto, criminale e assassina, ma anche dalle forme continue di attacco alla vita e di chiusura verso la vita. Quando, non so se l'avete ancora capito, ragazzi carissimi, davanti a Dio il fine primario della sessualità umana è la procreazione, l'unione dell'una carne sola. Quindi l'aspetto unitivo è secondario nella dottrina tradizionale. Adesso c'è qualche autore che li mette sullo stesso piano. Io ho qualche riserva su questo. Sono più propenso per la dottrina tradizionale. Comunque sia, l'Umane Vitae afferma chiarissimamente che la dimensione procreativa non può essere scissa da quella unitiva, con un atto di libera volontà da parte dell'uomo. Quindi se uno viene a dire posso avere rapporti con mia moglie se so che è già incinta? La risposta è sì, è lecito, perché questa dissociazione dell'elemento procreativo da quello unitivo non dipende da un atto di libera volontà dell'uomo. Tu e tua moglie state già facendo la volontà di Dio. Posso io avere rapporti con mio marito quando è finita l'età feconda mia, che sono entrata in menopausa, scusatemi il termine esplicito? Certamente sì. È lecito. Poi ci sono alcune coppie che magari offrono il sacrificio di astenersi per un certo periodo di tempo, o alcune addirittura dopo l'età feconda a tempo indeterminato. Questo si può fare ed è un bene migliore. Però da un punto di vista morale, che un rapporto sia lecito, non c'è alcun dubbio. Non fai niente di male. D'accordo? Ma perché non c'è un libero concorso umano? Invece tutti gli atti che, scrive Paolo VI, o in vista del compimento dell'atto coniugale. In vista, quindi cosa sarà? La pillola, per esempio, no? O la spirale, o la sterilizzazione. O durante il loro compimento, cosa sarà? Il preservativo, o il coito interrotto, oppure in vista, come dire, degli esiti dell'atto, e qui entra la spirale, prima ancora, perché la spirale, adesso ne parleremo, non è un metodo contraccettivo, ma è un metodo abortivo, perché la spirale non impedisce il concepimento, ma impedisce l'annidamento dello zigote però. Quindi state attenzione a chi prende la spirale, è un peccato gravissimo. Perché chi l'ha portata davanti a Dio dovrà rispondere dell'assassinio di alcune anime, non semplicemente di un mancato concepimento. È più grave. È il più grave fra tutti i mezzi contraccettivi. Appunto perché questo contraccettivo non è. Non parliamo poi della moderna pillola RU486, che è ancora più abortiva. Quindi Allora, da queste norme, che sono state sancite a chiarissime lettere da due papi, uno un po' più antico e uno più recente, uno è Pio XI, nella splendida e attualissima enciclica Casti Connubii, e l'altro è Paolo VI, nella combattutissima e contestatissima enciclica Umane Vitae, i cui chiari e coraggiosi insegnamenti sono stati recepiti proprio ipso facto, testualmente, con citazioni ad litteram, nel nuovo catechismo della Chiesa Cattolica. Tra parentesi, con Paolo VI accadde un po' una cosa simile a quello che sta accadendo col Papa attuale, no? Paolo VI sembrava che una volta eletto fosse chi lo sa quale grande, moderno, riformatore, eccetera, no? Si era, aveva compiuto anche da vescovo, da cardinale, alcuni gesti un po' diciamo di frontiera, va bene? Quindi tutti quanti, è arrivato Paolo VI, facciamo qua, facciamo là, e poi che è successo? Ovviamente, a meno che non vogliamo insomma cioè, ipotizzare che lo Spirito Santo abbandoni così tanto la Chiesa da permettere che arrivi un Papa folle, ma insomma. Scrive l'Umane Vitae 4 anni dopo l'elezione al pontificato, quindi non un secolo dopo, 68, apri di cielo. Ah, ma pure Paolo VI va a dire tutte quante queste cose, è un bacchettone anche lui. Ah, pensavamo che avesse cambiato la Chiesa, invece qui non è cambiato niente, eccetera, eccetera. Ma cambia la Chiesa di cosa? Su questi argomenti cambia la Chiesa. Queste cose non cambieranno mai, per cui anche adesso tutte quante le cornacchie, perdonatemi oggi, guardate che non ci sto tanto che stanno dicendo, è arrivato Papa Francesco, adesso questo qua, boom, boom, boom, boom, boom. Io sto soltanto che aspettare di vedere chissà che cosa, d'accordo? Io non ci credo, non ci credo, perché questo è un Papa. D'accordo. Potrà anche aver avuto delle sue vedute particolari, però io ritengo che un conto è essere vescovo e cardinale, un conto è diventare papa. Perché una volta diventi papa, cioè, una cosa su cui concordano Papa Francesco e Papa Benedetto, e su cui concordo ovviamente anch'io, è che la Chiesa Cattolica appartiene a Gesù Cristo, non è né mia, né di Benedetto, né di Francesco, né di nessun vescovo, né di nessun cardinale. Alla fine chi cura la Chiesa è nostro Signore. Per cui sto Papa è andato su? Chi ce l'ha messo? Ce l'hanno messo gli uomini? No. Comunque, Gesù Cristo ha permesso che andasse lì sopra, d'accordo? Ecco, e quindi gli darà tutti gli aiuti, tutte quante le grazie necessarie per adempiere al suo ministero. Punto. Adesso è uscita la prima enciclica, certo che la prima enciclica si vede benissimo che è scritta a larghe mani da Benedetto XVI. Ma che io ricordo, io ho studiato 2000 anni di storia della Chiesa, come tutti i preti, anche i papi, diciamo, un po' meno all'altezza della situazione, usiamo questo eufemismo, che si sono succeduti nel corso della storia e che magari possono anche aver combinato qualche danno da un punto di vista, come dire, politico o pastorale, ma da un punto di vista magisteriale, non hanno mai minimamente intaccato il patrimonio de fide et moribus cattolico. Perché io mi rifiuto di soltanto pensare che Dio possa permettere una cosa di questo genere. Perché il Papa, come sappiamo, gode di alcune grazie e privilegi speciali fondati nel Vangelo. Simone, Simone, Satana ti ha cercato per provarti come il grano, ma io ho pregato per te che non venga meno la tua fede, perché tu, anche se puoi avere qualche momento di sbandamento, una volta ravvenuto devi confermare i tuoi fratelli. Se venisse meno questa funzione petrina, ragazzi, si salvi chi può, eh? Dopo veramente la Chiesa finisce. Quindi, e su questo tema il magistero della Chiesa è stato sempre, come dire, unilineare. Per cui se uno legge la Casti Connubii, di fatto legge l'Umane Vitae, soltanto che ai tempi della Casti Connubii ancora non c'erano i mezzi moderni contraccettivi, perché la pillola ancora non era stata sperimentata. Per esempio, questo certo, ai tempi per esempio dell'Umane Vitae non c'era la pillola del giorno dopo. Su cui c'è stata qualche pronuncia da parte di qualche commissione in tema di bioetica abbastanza recente, quindi è evidente che con il progresso tecnologico, ma tanto la sostanza non cambia. E veniamo subito qui ai metodi più antichi. Oh, il metodo più antico di tutti, cioè Ragazzi, secondo voi, prima che diventassimo tutti quanti bravi e moderni, cioè prima che si inventassero la spirale, d'accordo? La sterilizzazione chimica, d'accordo? Il preservativo, la pillola anticoncezionale. Se uno 500 anni fa voleva chiudersi alla vita, ma come faceva? Come faceva? Allora, a quello che ci raccontano, le donne praticamente usavano dei sistemi tali che con delle sostanze che inserivano nel proprio organo genitale occludevano le tube e quindi ottenendo praticamente un effetto identico a quello che consegue la spirale. Dicono che lo facessero con la cera, d'accordo? Ora, non è che quelle non si dovevano andare a confessare, perché io che ho preso la spirale, che ho preso la pillola, questa è una cosa naturale, ho preso la cera, ma il problema è l'intenzione e l'effetto dell'intenzione che tu hai. Cioè tu stai utilizzando una cosa perché attraverso quella cosa vuoi impedire che nasca una vita, ed è qui che sta la colpa. E gli uomini come facevano? Facilissimo. Quando l'uomo ha cominciato ad essere un pochino intelligente, e questa è una cosa antica perché vedremo che questo episodio si trova addirittura nel libro della Genesi, avendo capito che il principio attivo della generazione era il seme maschile, facilissimo, che cosa facciamo? Si interrompe il rapporto prima che ci sia l'emissione del seme, in modo tale che il seme sia disperso e non entri nell'organo genitale della signorina. Tutto qua, non è che ci vuole la scienza infusa. Ora c'è un piccolo problema però ragazzi, che se uno apre il libro della Genesi al capitolo 38 vedrà che un tale di nome Onan, sono sei versetti, è capitolo 38 dal versetto 4 al versetto 10. Questo con un pregresso diciamo di storia tra l'altro abbastanza discutibile, cosa fa? Si univa, c'è scritto nel testo, alla sua moglie e, vedete il linguaggio sobrio della Sacra Scrittura, disperdeva il seme per terra. Ora, dopo questa operazione, in modo lapidario, il libro della Genesi sentenzia: ciò che faceva non fu gradito al Signore ed egli lo fece morire. Quindi questo qui è stato fulminato sul colpo per aver fatto questa cosa, che molti oggi reputano assolutamente normale e naturale. Che per caso avete usato qualche contraccettivo? No, no, no, stiamo semplicemente un pochino attenti. Come stare attenti in che senso? In che senso? Il senso è quasi sempre questo, ma questo non è un metodo naturale. Tant'è vero che in teologia questo si chiama onanismo, perché quest'uomo si chiamava Onan. Attenzione che comunemente è chiamato coito interrotto. Mi ricordo una volta successo una questione che c'era una persona che dice: ah, ma io non sapevo neanche il significato del termine fornicazione. Dico, scusa un attimo, eh. Non lo sa quasi nessuno il significato del termine fornicazione, se non chi si è studiato il catechismo della Chiesa Cattolica, chi ha studiato scienze religiose, chi ha fatto un corso di teologia morale o chi si è sentito le catechesi sui 10 comandamenti. Cioè, ma perché tu faccia un peccato mortale, comunque, che deve avere un rapporto prematrimoniale, mica ci serve che sappia che significa fornicazione. Ci sono molti altri termini molto più scurrili, molto più volgari anche per descrivere ugualmente la condotta. E, ecco, esplicitato attraverso il termine fornicazione, così che tu non sai che dici l'onanismo. Che cos'è l'onanismo? Hai visto i film di Fantozzi quando gli fanno la domanda su quelle cose strane? L'onanismo, devi conoscere questo episodio, è il peccato di Onan. Lo cita Pio XII in uno dei documenti, condannando seriamente appunto l'onanismo. L'onanismo è quello che volgarmente si chiama interruzione del rapporto o dispersione del seme, oppure c'è un altro termine che infastidisce di più, che non amo utilizzare, con cui è ancora più comunemente conosciuto. Questo non è un metodo naturale, questo è un metodo contraccettivo, che è proibito. Ecco. È proibito. Oggi c'è la pillola anticoncezionale, che è un altro grave danno e grave sciagura. Allora, qui bisogna fare anche attenzione ai problemi come dire, nei rapporti tra i coniugi e poi ai problemi di confessione. Allora, partiamo dall'ultima cosa. L'ultimo peccato che abbiamo visto, quello di Onan, è sempre peccato mortale da parte dell'uomo, senza nessuna circostanza attenuante. È peccato mortale anche da parte della donna, quando la donna consente, quindi è d'accordo con questa cosa, o addirittura lo chiede al marito di fare questa cosa, oppure, trovandosi dinanzi a un marito che fa questa cosa, non lo rimprovera, dicendogli perché fai questo? Io non sono d'accordo. Ecco, però si dice in teologia morale che se la donna ammonisce il marito, come dire, non è che lei se accetta di stare col marito fa subito peccato mortale, perché può sperare, dal momento che questo è un atto, è un peccato che si compie nel momento stesso dell'atto, che il marito, ascoltando le sue esortazioni, non ripeta questa condotta. È diverso invece il caso in cui il marito dovesse presentarsi e compiere un rapporto, come dire, armato di preservativo. Certamente che in questo caso il peccato è principalmente dell'uomo, ma se la moglie accetta e quindi si unisce, cioè lei lo sa da prima, quindi comincia il rapporto sapendo che il marito sta usando questo metodo cattivo, quindi non ci sono circostanze attenuanti o scusanti. La moglie deve dire al marito: tu questo fare te lo togli, se no io sono costretta, mio malgrado, perché ti voglio bene e non vorrei contristarti, ma prima di te viene la legge di Dio a dirti buonanotte. E vale anche il caso contrario: la donna prende la pillola e il marito lo sa. Il marito non può unirsi illecitamente alla moglie e né può dire: ah, ma questo è un peccato che fa mia moglie, non sono affari miei. E no, sono affari tuoi, sì, perché tu a tua moglie gli puoi, anzi, gli devi dire: questa cosa la togli, smetti di prenderla, altrimenti i nostri rapporti non sono leciti e io, mio malgrado, non posso stare con te. C'è solo un caso molto circoscritto in cui è lecito assumere la pillola contraccettiva, che è quando gli ormoni, che questa pillola stimola o inibisce, adesso io non sono un tecnico, però ho studiato chiaramente in teologia morale, sono funzionali alla cura terapeutica di qualche problema femminile. Ora, la donna cattolica è obbligata a dire al medico che la cura: guarda che io non voglio prendere la pillola, per cui se c'è un altro sistema, mi dai quell'altro sistema. Se il medico dice: no, figlia mia, non c'è altro sistema, la donna può accettare di usare questo sistema a questo scopo terapeutico, non pecca mortalmente per il periodo in cui usa la pillola per questo scopo se si unisce a suo marito, fermo restando che deve dire al medico: appena possibile togliere questa cosa, tu me la devi togliere, subito, senza neanche attendere un secondo di più. Vi ripeto, e siamo in via di conclusione, che tra tutti questi atti il più grave di tutti è la spirale che impedisce, come vi accennavo, l'annidamento. Allora noi dobbiamo sapere che non c'è un dogma di fede, ma è dottrina comune, che dottrina comune vuol dire che chi dice il contrario lo fa assumendosi una grossa responsabilità davanti a Dio, perché si espone al rischio di cosiddetta dottrina temeraria. Cioè, temeraria vuol dire che tu ti inventi una cosa superbamente, in base a tue supposizioni, che però non sono ciò che hanno ritenuto fior di santi e fior di dottori. Quindi c'è insito, come dire, il peccato di superbia, che tu ti pensi che sei più intelligente e più santo dei grandi giganti che ci hanno preceduti, cosa che non è proprio un attributo della santa virtù dell'umiltà. Questa dottrina comune dice che Dio crea un'anima nell'istante stesso del concepimento, è un attimo. Cioè, voi sapete che il concepimento avviene quando i due zigoti, quindi c'è la scissione dello zigote maschile e dello zigote femminile, quindi che si dividono, sarebbero portatori di 46 cromosomi per uno, diventano 23 per uno e vanno ad unirsi formando la nuova cellula che si chiamano zigote. Nel momento stesso in cui questo fenomeno avviene, che si chiama appunto fecondazione, Dio crea l'anima e è una frazione di micron, immediatamente la infondo in questa cellula e immediatamente, appena infusa, contrae la colpa d'origine. Quindi tu hai in un istante tre fenomeni: nascita di una nuova vita, creazione di un'anima, infusione dell'anima, contrazione della colpa d'origine. Quindi vuol dire che a 3 secondi di vita quella cellula c'ha già l'anima e ha già contratto il peccato originale. Quindi vuol dire che c'è un'anima razionale di una persona umana, vera e identica a quella che abbiamo noi grandi, tale e quale, con l'unica differenza che non ha l'uso delle potenze spirituali, perché non ha gli organi corporei che in questa vita servono per farle funzionare formati adeguatamente, e che ha già contratto la colpa d'origine. Quindi vuol dire che se tu fai secco anche a 2, 3, 4 giorni uno zigote, tu stai eliminando dalla terra dei viventi su questa terra un'anima razionale, macchiata tra l'altro della colpa d'origine. E anche qui, anche se il limbo, il cosiddetto limbo, non è stato oggetto formale di un dogma di fede, è dottrina comune alla sua esistenza. E stare attenti che il recente documento della Commissione Teologica non ha affatto escluso la sua esistenza. Ha argomentato alcune supposizioni. Ma io, per esempio, sono contrarissimo a negare l'esistenza del limbo, perché ci sono alcune affermazioni di alcuni concili, ne ho parlato in qualche altro intervento, che sotto forma di anatema addirittura sembrano lasciar presagire che esista un luogo diverso dall'inferno e dal purgatorio, dove vanno le anime che sono soltanto macchiate della colpa d'origine, quindi che subiscono la pena del danno senza subire la pena del senso. E questo né in forma eterna come avviene nell'inferno e né in forma temporanea come avviene in purgatorio. Ci sono due affermazioni di concili. Adesso non ho pronto questo argomento dietro, quindi non ve li posso citare. Magari la prossima volta, se mi ricordo, o se qualcuno mi fa una telefonata che gli interessa, citerò questa cosa. Quindi attenzione a portare la spirale, perché poi, altra cosa che sembra probabile, se il limbo esiste, qualcuno lo deve tirare fuori a quell'anima. Ecco, perché poi è anche discusso se il limbo sia eterno o sia non eterno. Io, per esempio, faccio sempre celebrare anche nei casi di aborti spontanei o peggio di aborti volontari, dalla madre o dal padre una messa per i bambini non nati, che sarebbe una messa che viene applicata con l'intenzione di liberare il bambino dal limbo, cioè un atto fatto dal padre e dalla madre che attraverso un gesto sostitutivo che esprime una sorta di battesimo di desiderio, compiono davanti a Dio quello stesso gesto che avrebbero compiuto se il bambino fosse nato. Ecco. E dice più di qualcuno, questa chiaramente è dottrina discutibile, ma io sono d'accordo al 100%, che solo facendo questo gesto si può essere certi che l'anima di un bambino non battezzata vada in paradiso. Però capite tutte quante le spiralate e tutti quanti i concepimenti non nati dalla spirale, quante anime corrono il rischio di precipitare nel limbo. Abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, io vi saluto dandovi appuntamento, se volete, alla settimana prossima con una nuova puntata della nostra trasmissione. Vi do a tutti la mia benedizione. Ave Maria.